spettacolo. Fine del mondo, immondo, visione diretta da San Pietro per l'occasione. La borsa sale, i marroni no. Fa ribattere il record di autogol. Le liste del giudizio universale saranno trasmesse dai telegiornali. Arrivo notificate e poi sulla pagina 666. Un primo però sul canale 9 ci sarà il terzo festival del dolore con la finale dei Casumani. Meno meno mani che mai. I putanieri ci diano dentro, che là di là niente ci c'ha, niente niente. Ma tu giri più leggero bruciando le tue scorte di preservativi. Fior in fiorello, l'amore è bello se ci sei tu. A che ora è la fine del mondo? A che ora è la fine del mondo? Ma che ora è la fine del mondo che regge? Destra, sinistra, su, giù, centro, fine del mondo con un palo in giramento. E chi è fuori e fuori, chi è dentro e fuori TV. Non sei niente, ultimo appello per i merdaioli. Finitevi la marcia che di là non funziona. Altro girone, altro regalo. Niente caramelle per il lecca culo, che il girone è giusto. Ok! A che ora è la fine del mondo? A che ora è la fine del mondo? A che ora è la fine del mondo che regge? Forse da di là mancherà qualcosa. Casa, chiesa, tele, cosa. Serial killer, serial politici. Morte in diretta e migliori casi clinici. Cazzi vostri in onda. Ok! A che ora è la fine del mondo? A che ora è la fine del mondo? A che ora è la fine del mondo che regge? A che ora è la fine del mondo? A che ora è la fine del mondo? A che ora è la fine del mondo che regge?